Credo che l'ultima volta che sono venuto qui è stato poco dopo che era morto Bobbio, che abbiamo fatto un seminario. È vero. Un seminario su Bobbio, quindi. È vero, esattamente. Anche perché il maestro vero è lui, più che Aron. Poi certo. Aron era un po' troppo di destra, insomma, tutto sommato. Però, assolutamente. Però da Aron ho imparato tantissimo, anche se era di destra. Quindi. Dunque, il mio primo punto è che non so bene di che cosa vi devo parlare. Questa non so se sia una buona notizia o cattiva, ma nel senso che questo mi ha costretto, il tema che mi è stato proposto, mi ha costretto a pensarci un pochettino, no? Quindi mi sono preparato, voglio dire, per voi questa sera. Ma mi ha costretto a pensare un po' a certe cose alle quali non avevo mai forse fatto sufficientemente attenzione. Io sono arrivato qui in realtà con degli appunti, proprio con degli appunti veri e propri, nel senso, visto che ho citato il mio maestro, mi viene da dire nel senso dei foglietti di Bobbio. Bobbio girava sempre con dei foglietti. Io non so se l'ho imparato da lui, se l'ho preso, però l'ho sempre fatto anch'io, e quindi anche questa sera lo farò. Probabilmente entro immediatamente nello spirito della postmodernità se vi dico che non ho preparato un discorso ben fatto, articolato, costruito come si deve. Nello spirito decostruzionistico della postmodernità io mi soffermo su una serie di punti partendo da punti che ho preso man mano. Allora, in primo luogo il disegno complessivo del mio argomento sarà questo. Lo Stato moderno, ovviamente qui non sto più a dire moderno, modernità, sappiamo che di questo stiamo, questo è al centro del nostro discorso. Lo Stato moderno e quindi la concezione dell'ordine internazionale che noi oggi abbiamo legato alla modernità è quello della anarchia e della sovranità. Potremmo chiudere il discorso qui, a essere proprio sintetici. Dire storia dello Stato moderno dal punto di vista internazionalistico naturalmente vuol dire i rapporti tra gli Stati sono condannati all'anarchia per la semplice ragione che il concetto di sovranità preclude qualsiasi tipo di soluzione alternativa. Tra soggetti sovrani non si dà altro che l'anarchia. Ma se la sovranità si riduce, e potremmo dire che qua e là si sono viste in 5 secoli, la mia prospettiva è quella dello Stato moderno, quindi quando dico l'origine dello Stato moderno intenderò d'ora in poi più o meno il XVI secolo, certo la storia non si taglia a fettine, ma insomma più o meno quando diciamo Stato moderno pensiamo che so a Carlo V, pensiamo a Francesco I, pensiamo allo Stato che si forma allora. Dunque, se però in questi 5 secoli qualche parte di sovranità si è in qualche modo ristretta o ridotta, ciò significa che lo Stato che vive con queste trasformazioni non è più uno Stato moderno, o non è più uno Stato altrettanto moderno che quello del passato e che quindi siamo entrati in una fase, forse, di postmodernità, ma con quelle che chiamerei scherzosamente per ora delle vere e proprie scorie. Cioè, se siamo usciti dalla modernità non ne siamo ancora, come dire, ripuliti, non funziona ancora tutto ciò. La storia dello Stato moderno, se posso banalizzare così la cosa, poteva essere ben sintetizzata da una, e può essere ben sintetizzata da una frase famosissima di un grande studioso, Charles Tilly, tra l'altro recentemente scomparso, che sintetizzò una volta in un modo straordinario che cosa significava tutto quello che io sto cercando meno brillantemente di dirmi. La frase è: la guerra fece lo Stato, virgola, lo Stato fece le guerre. Cioè, questo nesso assoluto e totale, irrimediabile tra lo Stato e la guerra. Lo Stato è il soggetto della guerra, lo Stato fa la guerra. Poiché però sulla base di questa scultorea, direi, proposizione, possiamo scoprire, conoscere diverse forme di istituzionalizzazione nella storia successiva, ed è proprio uno dei punti purtroppo meno notati, ma per me più importanti di quell'ultimo mio libretto, La crisi, in cui c'è un capitolo proprio dedicato all'istituzionalismo internazionalistico, non con i soliti discorsi sul fatto che c'è l'ONU, che ci sono le organizzazioni internazionali, cose sacrosante, ma che sappiamo tutti, ma sul fatto che le istituzioni non sono solo quelle che noi chiamiamo istituzioni, ma la parola istituzione, Santi Romano e così via, significano molto molto di più di tutto questo, ed è l'agente disgregatore, per così dire, della, della modernità. Secondo appunto, che però è legatissimo al primo, questa sera io sono chiamato a parlarvi di ciò contro cui ho combattuto, scientificamente parlando, ci mancherebbe, tutta la vita. Cioè, forse parlavo in prosa senza saperlo, ma io ho sempre scritto contro tutto ciò che la concezione moderna della teoria delle relazioni internazionali ha sostenuto, e quindi la cosa è per me, da questo punto di vista, particolarmente suggestiva. Consentitemi di dire che fin dai miei primissimi lavori, 40 anni fa ormai, sono sempre stato all'opposizione della concezione moderna delle relazioni internazionali, a cui ho sempre contrapposto una teoria totalmente alternativa. La stessa storia che dai moderni è stata sempre concepita, la storia delle relazioni internazionali, naturalmente nel mio caso, sempre è stata concepita dai moderni come un maestoso, inarrestabile, continuo, sì, certo, con ogni tanto qualche discontinuità, ma con una sorta di evolutivo ed evoluzionistico, inarrestabile disegno. Esempio preclaro di questa impostazione è sempre per noi internazionalisti un libro che in Italia ha avuto, nonostante sia stato tradotto, quindi essendo alto così è stata un'impresa editoriale straordinaria, ma con successo in Italia scarsissimo, ma nel mondo anglosassone, che è la patria delle relazioni internazionali, quindi è lì che conta, il libro curato da Hedley Bull e Alan Watson, che in Italia è stato tradotto dalla Jacobuc, L'espansione della società internazionale, che è una felice, tranquilla, serena, ma ignara, e incosciente e inconsapevole, storia dell'espansione dell'Occidente, fino ad arrivare, tanto per farvi capire la musica, verso nelle ultime pagine, a spiegare che ci sono persino degli stati che non sono contenti di quello che, di come l'Occidente abbia fatto evolvere la storia dell'umanità. Ma sono pochissimi, sono alcuni stati birichini che non sono del tutto allineati a tutto ciò. E quindi per me smantellare, smascherare e ricominciare da capo a discutere della narrazione, che la parola narrazione è una parola stilisticamente fondamentale nello spirito dei postmoderni, no? Che trasformano quello che una volta era appunto quelli che credevano di fare della storiografia. Abbiamo forse noi postmoderni, perché io, anche se appunto se parlavo in prosa senza saperlo, anch'io ho sempre pensato che la storiografia andasse fatta in un altro modo, che la narrazione dovesse rientrare in una prospettiva completamente diversa. A patto però di non finire come finiscono certi postmoderni narratori che alla Baudrillard sono arrivati, poi farò altri nomi di cattivi, per così dire, il quale sull'attacco alle Twin Towers è riuscito addirittura a farne un resoconto estetico, spiegando, diciamocelo francamente, la bellezza di quelle immagini. Bellezza, ovviamente lo dico con molta... Ma il fascino, insomma, non c'è mai stato un film che abbia, forse sì, io non vado tanto al cinema, insomma, quelle immagini erano straordinarie, però scrivere che quella era una scena esteticamente, c'era anche qualcosa d'altro, insomma, è successo non soltanto un fatto estetico. Dunque, l'ordine internazionale, comunque, della modernità è una cosa che va, io dicevo la nascita dello Stato moderno, ma se vogliamo essere più, un pochettino più tradizionalisti o normali, va da Vestfalia, cioè dal 1648, fino all'ONU. Qualche discontinuità, sì, però sempre superata da questa sorta di ottimismo occidentalistico, occidentocentrico, che, come vi dicevo prima, vede alcuni grandi classici che lo sostengono. Con alcune discontinuità, di una parlerò poi in particolare, che è quella che mi ha portato poi a usare questa parola postmodernità, che io non mi ricordavo, vi confesso, non mi ricordavo di aver mai usato, ma che è invece il titolo di un mio saggio dell'89, che proprio è il momento, penso, di svolta fondamentale di tutto questo ragionamento. Qual è il cuore logico, il significato della logica della modernità nelle relazioni internazionali? Io penso che potremmo semplicemente trovarlo nella logica, nel razionalismo meccanicistico tipico dello sviluppo del mondo occidentale, inteso proprio nel suo modo di produzione, cioè la logica del capitalismo, che uso in questo caso proprio come termine totalmente descrittivo, che si fonda sulla razionalità del lavoro, sulla razionalizzazione e l'efficienza, e che ha portato nel caso delle relazioni internazionali uno dei massimi teorici dei primi anni 50, e dovete sapere che la disciplina delle relazioni internazionali nasce nel 19, ma in sostanza comincia a svilupparsi solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi chi scrive nei primi anni 50 fa parte praticamente dei classici della disciplina, che ha portato Arnold Wolfers, che è stato a quei tempi appunto un personaggio importante, a suggerire il modello, l'immagine, chiamatela come volete, dato il tipo di descrizione che produce, al modello della palla da biliardo. La logica della concezione moderna delle relazioni internazionali è quella della palla da biliardo. Cosa significa? Significa che, il riferimento è poco raffinato, ma insomma ciascuno Stato è come una palla da biliardo sul tavolo da biliardo. Ora, come voi sapete, se vedete un biliardo, le palle sono ferme sul biliardo. Però ogni tanto qualcuno colpisce una palla e questa palla colpita che cosa fa? Si muove sul tavolo e batte contro una sponda, colpisce un'altra palla e così via. Insomma, il gioco, le cose che succedono su un biliardo sono il prodotto delle palle che si scontrano con angolazioni diverse, con intensità diverse e così via. È evidente che cosa questo tipo di immagine suggerisce. Suggerisce che ciascuno Stato, se lo si lasciasse in pace tranquillo, se ne starebbe lì bravo tranquillo. Nessuno Stato è il soggetto protagonista della dinamicità del gioco. C'è qualche cosa che arriva da fuori, un non ben determinato, che è quello che fa scattare il movimento delle palle da biliardo. Su questa base vi può sembrare molto ingenuo, molto, molto primitivo tutto ciò, ma vi assicuro, questa era la teoria delle relazioni internazionali negli anni 50. La teoria moderna delle relazioni internazionali suggeriva quindi, conseguentemente, che gli avvenimenti, che quel che succedeva nella vita internazionale, obbedisse semplicemente a logiche oggettive, quindi no, fuori dalla soggettività degli attori, fondate su una vera e propria inevitabilità degli eventi. Così come una palla che viene colpita dice, ma io cosa ne posso? Certo, vado a sbattere contro un'altra palla, ma non è colpa mia, è stato quell'altro. E quindi basata sul principio di involontarietà. Ora, voi siete liberi di non saperlo, ma io invece lo dovevo sapere e ve lo dico, uno dei due più importanti teorici delle relazioni internazionali della seconda metà del XX secolo è un signore che si chiama Kenneth Waltz, il cui libro più importante è stato tradotto anche in Italia dal Mulino, il quale in una frase che io ho citato migliaia di volte, ormai riassume le cose che vi ho detto fino a questo punto in questo modo. Dice Waltz: il perdurante carattere anarchico della politica internazionale spiega la sorprendente uguaglianza della vita internazionale attraverso i millenni. Cioè, tradotto in italiano, non succede mai nulla di nuovo. La vita internazionale attraverso i millenni ha sempre avuto una sorprendente uguaglianza. A me sembra di sentire un balbettio da bambino, ma questo è ciò che ha ispirato gli studiosi di relazioni internazionali per 30 anni. A prova della mia malizia, forse addirittura malvagità, aggiungerò che non questa stessa frase, ma considerazioni del tutto analoghe che Kenneth Waltz ha fatto dopo l'89. Quindi non è neanche che questa sia, è vero, questa è del 79, ma questa è la più famosa, quindi uso sempre questa. Ma dopo l'89, che qualche cosetta era successo, qualche cosa che non andava proprio d'accordo con la sorprendente uguaglianza della vita internazionale, era successo nell'89, ma per lui è rimasto sempre tutto la stessa cosa. Dunque la teoria, l'introduzione della logica postmoderna anche nel nostro settore smaschera, decostruisce veramente, e questa funzione è a mio modo di vedere importantissima e utilissima, smaschera la presunta oggettività della vita internazionale e la trasforma appunto in soggettività, cioè in azioni deliberate, azioni razionali, volute, insomma, e non casuali come sembra attraverso la logica della palla da biliardo. Dunque la modernità, dicevamo, è il primato della ragione strumentale, mentre la postmodernità è in realtà, da questo punto di vista, l'illimitatezza dei modelli d'ordine, cioè la fine delle certezze, la fine delle sicurezze logico-interpretative, non dico neanche della sicurezza politica, che questo è ancora un altro piano. In altri termini, riflettere sulla modernità, specie in una disciplina tanto importante quanto povera come la mia, mi sembra che studiare i problemi internazionali sia, adesso non vorrei sembrare troppo ingenuo, ma insomma mi sembra che sia la cosa più importante che esista al mondo oggi, anche perché distinguere che cosa è interno e che cosa è internazionale mi sembra che abbia perso gran parte del suo significato, e anzi proprio aver sempre conservato questa distinzione tra i due mondi, dalla politica interna e dalla politica internazionale, è una delle responsabilità principali, direi, della logica moderna. Dicevo, riflettere sulla modernità rischia dunque di causare delle vere e proprie crisi di identità, perché dal punto di vista disciplinare io potrei dire, o chi volesse sostenere una posizione come quella che sto sostenendo io qui adesso con voi, sarebbe come dire: prendiamo lo spugno e cancelliamo 50 anni di libri di teoria delle relazioni internazionali, il che è una responsabilità grossa, anche perché implicitamente in quello che vi ho detto, per dimostrarvi che sono più ingenuo che malizioso, non cancellerei i miei. Perché, come vi dicevo prima, io ho sempre cercato di sfuggire, posso aver scritto altre sciocchezze, ma ho sempre cercato di sfuggire proprio a questa logica della modernità nella teoria delle relazioni internazionali. Ho citato prima Waltz, ma c'è un altro personaggio che va evocato e ricordato, anche se solo per un secondo, perché il vero grande maestro è lui, è ovviamente Hans Morgenthau, del quale curiosamente anche abbiamo la traduzione italiana. I due maggiori classici del realismo internazionalistico, cioè Morgenthau e Waltz, sono stati tradotti tutti e due dal Mulino, naturalmente, con un'operazione culturale significativa, ma anche ideologicamente significativa, e guarda caso, tutti e due introdotti dal Buonanotte. Un'introduzione molto critica all'uno e all'altro del Buonanotte. Forse non sapevano cosa si faceva dal Mulino. Ma io le ho dato la battuta, grazie. Il quale, l'inizio del libro più importante del quale, Politics Among Nations, inizia dicendo: la politica è retta da leggi oggettive che hanno le loro radici nella natura umana. Nella natura umana. Punto e basta. No, poi il libro continua per 700 pagine, ci mancherebbe. Ma quando hai detto questo, sei già entrato in una logica dalla quale non si può più sfuggire. Quindi leggi di carattere causale, tratte dall'osservazione e dalla regolarità dei comportamenti degli attori del sistema. Come si va avanti rispetto alla palla da biliardo che era l'inevitabilità del tutto? Si va avanti dicendo che ci sono i soggetti che agiscono, dice Morgenthau. Non è vero che sono solo delle palle su un tavolo da biliardo. C'è la soggettività, ma chiunque sia ad incarnare il soggetto storico, lo Stato, il soggetto politico, i governi, in realtà non possono che fare tutte le stesse cose. Cioè non ci sono scelte possibili. Lo statista non può far altro che obbedire, osservare le regolarità e muoversi secondo questa logica nella sua azione politica. Dal punto di vista della modernità, dunque, il discorso è chiaro e semplice. Ordine internazionale né esiste, né è mai esistito, né, finché ci saranno degli stati, potrà mai esistere. E proprio questo è il punto su cui la mia opposizione è stata sempre totale fino dai miei primi più ingenui scritti, che mi hanno pre-post-modernisticamente sempre suggerito di utilizzare la politica internazionale proprio come strumento di demistificazione e di decostruzione. Vogliamo parlare della democrazia degli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sono un paese democratico? Sì. Gli Stati Uniti sono un paese democratico? No. Per certi versi sì, per certi altri no. Se noi continuiamo a usare la logica che separa politica interna e politica internazionale, non potremo mai capire come gli Stati Uniti possano avere certi lati della loro vita, della loro politica, della loro società, che certamente rientrano nel mondo della democrazia, con la D minuscola intesa, come sono gli Stati democratici normalmente, ma ci sono dei profili della vita di questo paese che sono certamente non democratici. Se volessimo, se proprio per pudore volessimo far finta che non esistano i problemi dell'oggi, cioè Afghanistan, Iraq e così via, gli Stati Uniti che vanno in Vietnam fanno un'azione non democratica, non c'è dubbio. Però trovatemi dei politologi, cioè nel senso accademico del termine, quindi paludati con tutti i crismi del caso, che abbiano mai ammesso una cosa del genere. Perché? Perché cosa rispondono? Ma per vacca, caro Bonamera. È vero che il Vietnam è un problema, però era un'esigenza di difesa del mondo occidentale. Poi all'interno gli Stati Uniti sono un paese democratico, dimenticando nella fattispecie, ad esempio, che il beneamato presidente Kennedy fece una cosa contro la Costituzione, una cosa per... Ah, però contro la Costituzione non succede più niente a un presidente se fa qualche birichinata, perché lui violò il fondamentale principio che il Presidente degli Stati Uniti poteva mandare dei soldati all'estero, ma doveva chiedere l'autorizzazione al Congresso. E se non la chiedi, come si chiama? Alto tradimento, no? Cose che succedono anche in altri paesi vicini e lontani. Democrazia elettorale. Tutti sappiamo che le elezioni sono un elemento importante della democrazia, benissimo. L'altro giorno in Iraq si è votato. Le elezioni sono una cosa democratica, ma le elezioni in Iraq non sono una cosa democratica. Però sui giornali ci sono, io non so se voi, io ho avuto la dabbenaggine di essere l'unico che ha scritto su un piccolo giornale italiano, che una volta era un grande giornale, ma che ormai è diventato un piccolo giornale, sull'Unità, un articolo in cui spiegavo che erano tutte, che erano brutte cose quelle che si stavano facendo. Il giorno dopo c'è stata tutta una mattinata a radio anch'io a discutere questa cosa qui. Ma come? Lei ha detto che non, quelle cose non sono serie. Dico, ma che, certo, vi dirò a vostra consolazione che moltissimi ascoltatori telefonarono per dare ragione a me, non agli altri se non altro. Perché la partecipazione è stata inferiore addirittura. Ma non basta. Perché nella fattispecie, perché anche l'altro giorno in Francia c'è stato il 53% d'astensione, quindi appunto questo ci fa vedere che dobbiamo discuterne di queste cose, mentre invece si sono sempre date per scontate. Gli Stati Uniti o il mondo occidentale fa fare delle elezioni in Iraq, bene, siamo contenti perché la democrazia avanza. No, è falso. Se non di vera e propria decostruzione, qui dobbiamo parlare quantomeno di smascheramento. Noi qui dobbiamo ancora fare un enorme lavoro di smascheramento, ma dicevo questo perché io penso che proprio la politica internazionale, proprio le relazioni internazionali con la loro apparente schematicità, con lo schematismo e la brutalità di quel mondo nel quale poi si arriva alla guerra, quindi insomma una cosa non troppo, non da educande, ci aiuti a vedere che gli stati che sono lo stesso Stato, quando fanno una cosa di politica interna e una di politica internazionale, tengono comportamenti in politica internazionale che in politica interna la stessa pubblica opinione non accetterebbe. Allora noi dobbiamo cercare di riuscire a ricomporre queste due metà dello Stato per far vedere che se tu ti comporti male o bene, insomma, a seconda di come tu ti comporti su un piano, c'è corrispondenza con quello che tu fai sull'altro, mentre noi siamo stati abituati dalla teoria classica delle relazioni internazionali, addirittura a partire dal modello hobbesiano, sul quale arriverò tra un secondo, sul fatto che non è vero che la politica internazionale sia, come sempre ci è stato insegnato, e questo da Tucidide in poi, ahimè, il puro e semplice regno dell'inganno, della menzogna, della sopraffazione brutale, degli intrighi diplomatici, della falsità, dei segreti. Se anche è stato così qualche volta in certi momenti, non deve essere così. E non possiamo continuare a giustificare il male internazionale dicendo tanto non si può fare diversamente. Questo è assolutamente falso. Questa è quella che potremmo chiamare una vera e propria derivazione paretiana, cioè è una sorta di di ragionamento logico ma sofistico, di manifestazione di sentimenti che in realtà non trovano fondamento neanche nella storia dei nostri problemi. Dunque, dicevo prima, sovranità uguale modernità, ovvero fin tanto che esisteranno degli stati sovrani resteremo nella modernità. Questo è il punto, il problema, che richiede di essere smascherato proprio per quella sua, come dire, compiaciuta certezza positivistica. Cioè, quello che io trovo sgradevolissimo nei miei colleghi internazionalisti è il senso di controllo della realtà su cui si sono, come dire, seduti. Cioè, senza interrogarsi, senza farsi dei dubbi. La vita internazionale ha quelle due o tre caratteristiche che vi ho detto, e poi non c'è più altro. Al massimo che si fa? La si racconta, la si può analizzare, ma per far vedere che le cose stanno proprio così. Ma in un modo, con un autocompiacimento che veramente mi pare impossibile giustificare. Naturalmente in tutto questo mondo dovessimo poi trovare la celebrazione rituale più nota, più famosa e più stucchevole di che cosa significa la modernità nelle relazioni internazionali, direi che il modellino più suggestivo è rappresentato dalle dottrine della guerra giusta. Tutto il pacchetto delle dottrine della guerra giusta, che sono il monumento della modernità internazionalistica. Da San Tommaso in poi, devo aggiungere, mi spiace magari un pochettino dirlo, fino alla guerra efficace di Norberto Bobbio, che credo sia stato un infortunio, l'infortunio linguistico di un vecchio grand'uomo, perché questa è la parola che gli sfuggì in un'intervista nel 91 alla prima all'invasione del Kuwait, no? dove Bobbio disse che è giustificata la guerra efficace. Io, che fui l'unico a non alzare la voce contro di tra i suoi amici e allievi, in pubblico e in privato gli chiesi se questo si poteva applicare anche alla guerra atomica. Certamente efficace, se non la fate, certo. Ma usare il concetto di efficacia per la guerra, ma ad ogni modo lasciamolo stare tranquillo. Dunque, quello che io sono andato perorando qui questa sera è l'idea che la modernità debba finire, cioè che sia finita, non lo sapeva ancora, e glielo stiamo finalmente dicendo. E che la fine di questa modernità sia comunque stata celebrata in un momento fondamentale, che è rappresentato dall'89. Quello è il momento in cui noi siamo di fronte a quella che, come dicevamo all'inizio, si può chiamare la mutazione postmoderna delle relazioni internazionali. Un momento storico straordinario. Io non esito a riproporre in continuazione l'analogia tra l'89 della Rivoluzione Francese e il nostro 89, in questo senso. L'89 della Rivoluzione Francese trasformò i sudditi in cittadini. Poi il discorso è molto più lungo, perché non è che nel 1790 il mondo fosse diventato un mondo idillico, ci mancherebbe. Ma il cammino, la rottura, la discontinuità, la mutazione del mondo, degli individui, è quella, da sudditi a cittadini. Il nostro 89, il 1989, è il momento in cui gli stati vengono liberati, cioè gli stati sudditi, quasi tutti sudditi, adesso vado un po' con l'accetta, ma insomma per mantenere la scultorità dell'argomento, nel 1989 gli stati diventano liberi. È chiaro, non diventano uguali, ci mancherebbe, così come nella Rivoluzione Francese, non è che libertà, égalité, fraternité abbiano prodotto davvero quelle cose lì, hanno iniziato un cammino. E lo stesso tipo di cammino inizia nel 1989 per gli stati. Ne abbiamo visto fino ad ora pochissimi risultati, ci mancherebbe. Ma quello è il cammino che inizia a seguito di una cosa importantissima. La fine di quella cosa che ho sempre chiamato la Terza Guerra Mondiale, non combattuta ma vinta. Che è un evento storico immenso. Capite? Mai negli ultimi cinque secoli un mutamento così totale, complessivo, globale, la morte di un grande Stato, di una grande potenza, di un grande impero, mettetevi tutti, della seconda potenza più armata della Terra, mettetevi tutti gli aggettivi che volete, mai nella storia era successo che un siffatto Stato rinunciasse spontaneamente, cioè autonomamente, pacificamente, insomma, a tutte le sue prerogative e si suicidasse, che è esattamente ciò che succede. Sarà stata consapevolezza, sarà stata lungimiranza, sarà stata autocondizione, quello che volete, ma quello che conta è che è successa una cosa che era impossibile, è successa una cosa impossibile. Ora, una cosa impossibile è proprio una cosa che è stata oggetto di una mutazione. E in particolare dovuta al fatto che un mezzo, cioè la minaccia della guerra nucleare, che è stato il simbolo del cinquantennio del bipolarismo, del quarantennio del bipolarismo, che un mezzo influisce su un fine, modifica i fini. La guerra non può più essere vinta. E questo muta la natura della guerra. Un mondo unitariamente deideologizzato, e questo aprirebbe un discorso molto interessante, ma troppo un po' lontano dalla crisi delle ideologie, la fine delle ideologie, la perdita delle ideologie, io direi, quando cerco di far capire ai ragazzi all'università e giovani che senza ideologia non si vive, perché l'ideologia non è una malattia e non è neanche uno strumento materiale, l'ideologia è la cinghia di trasmissione tra valori e azione politica, quindi non esistono situazioni non ideologiche. E non c'è niente di male in tutto ciò, ma insomma questo è un discorso che ci porterebbe altrove. Dunque, se mai c'era entrato, il mondo è uscito dallo stato di natura. Quello che la teoria moderna delle relazioni internazionali ha sempre considerato la condizione inevitabile e naturale della vita e del rapporto tra gli stati è finito. Ma di che cosa parliamo? Parliamo appunto del modello hobbesiano, la potenza del quale è stata tale per cui per cinque secoli, insomma, ha dominato la teoria delle relazioni internazionali. L'argomento hobbesiano è tanto, tanto suggestivo e affascinante quanto semplice, e poi in fondo sbagliato, non nella sua logica, ma nel modo in cui è stato adottato nella disciplina. L'argomento è molto semplice. Non sto neanche a farvi tutto il discorso dello stato di natura, la società civile hobbesiana, ma quello che conta è che lui, dopo aver spiegato come fanno gli esseri umani a uscire dallo stato di natura, che è bellicoso, violento, anarchico, tutte quelle cose che sappiamo, e a un certo punto si rendono conto che così non si può vivere in questo modo così difficile, così pericoloso, e decidono di mettersi d'accordo e di dare vita alla società civile. Quello che è curioso, significativo, suggestivo, è che è stato adottato da tutti gli internazionalisti successivi per 4-5 secoli, è stata la battuta, per così dire, che ho fatto alla fine di questo argomento, in cui dice, bene, tutto ciò che vi ho detto che può succedere agli individui all'interno dello Stato, bene, tutto ciò non può essere detto per quanto riguarda i rapporti tra i principi. Tutto ciò che, quell'ordine, quella pace, la sicurezza, la fine del bellum omnium contra omnes che si può realizzare tra gli esseri umani dentro lo Stato, tutto ciò non si può avere per quanto riguarda gli Stati. Gli Stati, fin tanto che lui non lo diceva perché non si immaginava neppure questa prospettiva, ma noi potremmo dire, fin tanto che esistono gli Stati, non si potrà avere pace solida sul piano internazionale, perché la natura della vita internazionale è di per sé quella anarchica, dunque bellicosa. Non è mica un caso che Kant, che è l'ultimo grande interprete del modello giusnaturalistico, sia costretto a sognare, a immaginare il cosmopolitismo, cioè la fine dello Stato. E perché se tu segui questa logica qui non c'è alternativa, puoi soltanto abolire lo Stato, che sarebbe una bellissima cosa, ma insomma, come dire, un pochettino ancora lontano. Quindi l'opposizione fondamentale, lo scontro decisivo è interno, uguale pace e ordine, l'esterno, cioè le relazioni internazionali, anarchia e guerra. Il mondo è fatto così. Ma tutto ciò entra in crisi in modo evidente, in modo vistoso, nell'89, come dicevo prima, quando un evento inspiegabile si determina. L'89 è il vero discrimine tra moderno e postmoderno. Succede una cosa, come dicevo prima, che non poteva succedere. Una guerra vinta senza essere combattuta. Ne esistono prove di questa affermazione, non tanto degli eventi che insomma più o meno tutti conosciamo, ma aggiungerei degli indizi più che delle prove. Il primo dei quali è la continua riduzione del numero di guerre nel mondo. adesso non ho pensato di portarmi dietro i dati, ma fatemi credito del fatto che dall'89 in poi la quantità di guerre nel mondo è continuamente e progressivamente diminuita. Al punto, vi do una notizia, che se noi potessimo cancellare per un attimo quelle due bruttissime storie che sono l'Afghanistan e l'Iraq, che però in un certo senso potremmo dire che non sono neanche delle vere guerre, perché sono state delle pure e semplici invasioni, ma insomma lasciamo... Il discorso andrebbe meglio argomentato su questo punto, ma insomma, se noi togliamo quelle due cose lì, il mondo negli ultimi 5 secoli è mai stato altrettanto poco in guerra. E questa è una notizia che dovrebbe essere straordinariamente positiva, non dovremmo esserne felici, e invece mi sembra che non lo siamo molto. Perché se è vero che abbiamo una notevolissima e progressiva, ripeto, riduzione del numero di guerre, intendo guerra nel senso tecnico-giuridico del termine, è una cosa tra due stati, con le dichiarazioni, non intendo guerre civili, guerre interne, anarchie locali, stati falliti, tutto ciò arricchisce poi l'argomentazione, cerco di essere per ora un pochettino schematico. Però la cosa importante è che a questa quasi scomparsa della guerra internazionale corrisponde un simmetrico e inverso aumento di conflittualità civile. Si riducono le guerre internazionali, ma aumenta la violenza nel mondo, la violenza civile. Violenza civile, io ovviamente penso essenzialmente alla violenza civile politica, ma potremmo anche argomentare che non è così distaccato da questo tipo di violenza civile politica il tasso di violenza sociale, di violenza endemica delle metropoli, delle grandi città, dei gruppi di diseredati, di emarginati. Adesso non voglio essere generico e qualunquistico, ma non escluderei che tra le varie forme di violenza collettiva che nel mondo si vanno sempre più affermando e che comportano d'altra parte una crescita continua di ricorsi a forme di repressione sempre meno gradevoli, vi faccio un solo esempio, tipico della postmodernità, devo dire, che è rappresentato dalle polizie private e che è rappresentato dalle compagnie private militari, che sono diventate una piaga spaventosa del mondo contemporaneo. Abbiamo queste truppe private, questi gruppi di bodyguard e così via, insomma, che vanno in giro per il mondo al seguito, che so. Voi pensate che chi si sta occupando della redistribuzione dei pozzi petroliferi in Iraq possa andare in giro per l'Iraq con le mani in tasca, senza preoccupazioni? Evidentemente no, ci vanno, sia ben chiaro, ci vanno, e i pozzi sono stati felicemente divisi e distribuiti tra le grandi potenze petrolifere del mondo, ma naturalmente ciascuno di questi è circondato, altro che le guardie che ci sono intorno a quegli scopi, altro che quella roba lì, e sono queste ditte private che vendono servizi di sicurezza, e questo è un comportamento che va diffondendosi sempre di più, e certamente così da vecchio sessantottino mi viene da dire che non può essere una buona cosa, una situazione nella quale la sicurezza personale, invece che essere affidata alle istituzioni statuali, è affidata a delle aziende private. Non vi sto a dire che poi per caso il vicepresidente degli Stati Uniti nella precedente amministrazione, Dick Cheney, era uno dei più grandi azionisti della Blackwater, che è stata la prima grande compagnia privata, ma insomma questi sono i piccoli incidenti della storia. Dunque, ciò che la modernità era riuscita in qualche modo progressivamente a immaginare o a limitare sembra che in questo momento abbia incominciato a corrodere le basi di ciò che sembrava appunto fossimo riusciti a ricostruire. Naturalmente questo si inserisce nel quadro, ma ve lo ricordo solo perché vi ho già fatto riferimento, della fine della rivoluzione, delle rivoluzioni possibili e del dibattito ideologico intorno a tutto ciò. Questo inceppamento della modernità. Io ho detto una cosa molto, molto impegnativa. La mutazione postmoderna, la fine della guerra, queste cose qui. Cos'è? Un giorno il mondo si è svegliato e ha detto ci siamo stufati della guerra? No. Io qui rischio proprio la mia credibilità, perché vi dirò una cosa che mi sembra anche un pochettino ingenua, anche se mi sembra vera. Io tendo a vedere la grande svolta della storia del rapporto tra modernità e storia, è quello che a noi è successo, se vado a vedere che cosa è successo all'inizio del XX secolo. Nello spazio di pochissimi anni, sarà stato un caso, ma noi abbiamo assistito a fenomeni come la comparsa degli scritti di Einstein sulla relatività, nel 1905 e nel 1916, i due fondamentali scritti di Einstein. Nel 1909 c'è la prima grande mostra di Kandinsky a Parigi che sconvolge la storia della pittura. Du côté de Chazvan, la prima parte della Recherche Proustiana, esce nel 13. Nel 1915 Schoenberg pubblica i suoi scritti sulla musica moderna. Cioè i grandi miti della letteratura, della filosofia, della pittura, della letteratura e della musica, i grandi principi su cui meraviglie della storia della cultura umana, non delle cosette, ma le cose più straordinarie, pensate alla storia della pittura, insomma, provate a mettere insieme, e io lo faccio molto volentieri, un Rubens e un Kandinsky, dite vabbè, questa, uno sta sulla Terra, l'altro sta sulla Luna, o viceversa. Certo, giusto, ho dimenticato di scriverlo, certo. Allora, tutto questo è successo nello spazio di pochissimi anni, e tutto questo ha più o meno accompagnato la Prima Guerra Mondiale, tra l'altro. La seconda sarebbe, secondo molte interpretazioni, nient'altro che la prosecuzione della prima, quindi saremmo di fronte a queste grandi rivoluzioni, potrebbero essere viste come quelle che hanno presieduto alla nuova guerra dei 30 anni, 1914-1945, è proprio come la guerra che ci portò a Vestfalia. Un altro importantissimo esempio di superamento della modernità, ancorché, a mio modo di vedere, per ora fallimentare nei suoi esiti, ma non nella sua teoria, nella sua componente ideale, direi, è il processo di unificazione europea. L'Unione Europea, oggi di 27, mi verrebbe quasi da dire era meglio quando erano 15, ma non importa, questi sono problemi tecnici. Non c'è nessun dubbio che il primo tentativo di superare quel concetto di sovranità assoluta, immodificabile, immarcescibile, che sta alla base del modello naturalistico di prima, è costituito dall'unificazione europea. Sei stati, se noi lo guardiamo nel suo momento nascente, nel suo momento più drammatico, che è il momento in cui due paesi come la Francia e la Germania si dissero mai più guerra, e non era retorica, per la prima volta nella storia, mentre che so, la grande dichiarazione del patto Briand-Kellogg nel 1927 in cui due stati si promisero mai più guerra, e poi sappiamo che cosa, non tra loro due, ma sappiamo che cosa era successo, quella fu retorica pura, e nel 1956 si è stabilita una cosa che ha reso impossibile la guerra tra... Certo, può crollare l'Unione Europea naturalmente, no? Possiamo finire nella guerra civile europea, nella guerra civile mondiale, ma il cammino fatto dal processo di unificazione europeo è il più straordinario, la più straordinaria risposta che sia stata data finora dalla storia alla logica anarchico-obesiana, per così dire. Con tutto questo, il mio giudizio sull'unificazione europea, sul processo di unificazione europea, è molto negativo, molto pessimistico, nel senso che per ora è rimasto un puro e semplice elemento della storia del capitalismo finanziario, quindi non vedo granché di buono nel modo in cui l'Unione Europea funziona, ma è il primo tentativo di risposta alla logica della modernità. Non poco importante è dal mio punto di vista l'accusa a cui ho fatto cenno già prima, ma che mi sembra importante ribadire adesso in conclusione, che è stato l'aver impedito alla disciplina delle relazioni internazionali, cioè a quella parte della scienza politica, di svilupparsi nei decenni, perché sulla base di questo paio di proposizioni, la storia è sempre uguale a se stessa e l'anarchia è la condizione naturale della vita tra gli stati, hanno fatto sì che per decenni si sia detto ma che c'è da studiare lì, non c'è proprio niente. Io spero di essere riuscito invece in questa galoppata un pochettino caotica, di farvi vedere che invece sotto sotto bisogna ricominciare da capo, perché qui ci sono delle cose importanti che forse non abbiamo ancora capito bene. In conclusione, in sostanza, la teoria critica o postmoderna, Oh, dovete sapere che oggi tra gli internazionalisti si scrive solo più di questo. Esistono ormai libroni alti così sul postmoderno nelle relazioni internazionali, specialmente sulla teoria critica, con tutte le sue variazioni, la principale delle quali è rappresentata dalla teoria femminista delle relazioni internazionali, un capitolo di straordinario interesse, diffusissimo ormai, libri sulla teoria femminista, che potrebbe, adesso lo dico proprio scherzosamente, perché il discorso è serio, è fatto da studiosi e ovviamente principalmente da studiose serissime, che partono però dal presupposto, tutt'altro che stupido a mio modo di vedere, che se la storia del potere fosse stata gestita dalla donna invece che dall'uomo fino dai millenni precedenti, beh, forse la storia delle guerre, la storia delle relazioni internazionali sarebbe stata diversa da quella che è stata. Non voglio neanche buttarla sul senso della maternità, sarebbe troppo ingenuo limitarsi a questo. Però c'è anche chi risponde che la donna è capace di essere più violenta dell'uomo, ma insomma questo è un discorso interessante, importante, ma che ci porterebbe lontani di qui. Ma per dire, la teoria critica nelle relazioni internazionali si occupa in modo molto molto intenso di tutto ciò. Quindi la teoria critica nasce dalla critica al realismo, cioè dal rifiuto della logica di Morgenthau e di Woolf sul realismo e sul neorealismo, che è quello che continua tutto sommato a affidarsi alle analisi ispirate a quello che potremmo chiamare il grande gioco, per riprendere una formula storica della storia diplomatica, o alla Brzezinski, Kissinger, quel tipo di mondo di una stucchevolezza, vi assicuro, leggere i libri di questi signori è veramente patetico, devo dire. A me succede soventissimo di richiamare i giovani o i colleghi o gli studiosi all'osservazione della carta geografica, cioè guardare come è fatto il mondo, guardare dove passano i confini, quella cosa artificialissima che si chiama confine, e guardare quindi perché gli stati si muovono, come si muovono, ci dice molto di più dell'applicazione di queste logiche appunto diplomaticistiche che del movimento, che so, la teoria del domino, ricordate quando gli Stati Uniti dovevano avere dei rappresentanti in giro per il mondo per salvare il mondo libero dal comunismo. E pensate solo a che cosa è stato in quest'ottica, adesso qui divago un attimo, ma insomma un esempio solo, cosa è stato il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Iran dello Shah di Persia. Uno dei personaggi più schifosi, scusate l'espressione, più violenti, sanguinari, soltanto Musharraf forse è stato a quel livello lì. Avete visto, Musharraf lo hanno fatto sparire, è stato fatto sparire pochi mesi fa, no? dopo la storia di Ali Bhutto, che è un'altra pagina terribile della storia contemporanea, lo hanno fatto sparire perché non era più presentabile in nessun modo. E la teoria del domino, il grande gioco degli Stati Uniti, era quello di appoggiarsi su personaggi di questo tipo. Non voglio dire che ci fosse bisogno di qualcuno di sinistra nella mia disciplina per aprire gli occhi su queste cose. Voglio dire che per decenni nessuno nel mio ambito ha parlato di queste cose. E questo mi sembra una cosa. Mi spiega anche perché mi sono sentito sovente solo, lasciatemelo dire. Dico bene, tu che mi conosci da tanti anni e i miei colleghi non hanno mai tanto ascoltato questo tipo di mie preoccupazioni. Quello che c'è di importantissimo, un piccolo annuncio positivo, nella teoria critica e nella concezione postmoderna delle relazioni internazionali c'è il punto di partenza, è rappresentato da un programma di teoria e prassi dell'emancipazione delle forze oppresse. Usare queste parole, me le sono scritte perché sono quelle che fa persino strano oggi come oggi, non ci sembra di sentir parlare di archeologia, ma questo è il punto. Teorie e prassi dell'emancipazione delle forze oppresse. Noi ci siamo completamente dimenticati che dentro gli stati ci sono degli esseri umani, ci sono delle situazioni di diseguaglianza, ci sono un mucchio di problemi da affrontare. Mentre, se vi ho dato una buona notizia, nel senso c'è un forte spirito di ripresa critica nell'ambito delle relazioni internazionali, vi devo anche dire che un po' inspiegabilmente tutta questa nouvelle vague, che in realtà però è fatta da personaggi più o meno della mia età, devo dire, è ispirata fondamentalmente agli scritti di Gramsci. Gramsci è diventato una specie di must straordinario della cultura internazionalistica, specialmente in Gran Bretagna. La Gran Bretagna ormai, chi non ha letto Gramsci proprio viene espulso anche dai salotti, perché insomma non si può. Gramsci, Foucault, Derrida, Deleuze e Baudrillard. Ora, la cosa curiosa è anche un pochettino imbarazzante per un internazionalista di professione come me, è che questi signori, tolto Gramsci, ma Gramsci poverino smise di scrivere 20 anni fa, mentre gli altri sono contemporanei o morti da pochi anni, non hanno mai scritto una parola che avesse direttamente a che fare con temi internazionalistici. E uno come me se li trova a questo punto come i grandi ispiratori della teoria critica delle relazioni internazionali. Smetto? Sì, c'ho solo più due o tre appuntini, vi racconto ancora questi. Dunque, la cosa che è rimasta da parte fino a questo punto nel mio ragionamento è il problema del come si decostruisce il tenore moderno della sovranità, perché io l'ho evocata due o tre volte, ma poi il problema grande è questo, penso. Allora, la mia impressione è che questo non si possa tanto fare come gli stessi postmoderni sovente fanno, dicendo che la sovranità va abolita perché è brutta, punto e basta, mi sembra un po' troppo poco. Così come quando si limitano a ricordare che la modernità è quella che ha legittimato il colonialismo, è giustissimo, è vero, anzi, molto sovente si fa finta che ormai si fa finta, i giovani non sanno che il colonialismo c'è stato, e il colonialismo è quello che ha portato oggi l'Islam ad avere determinate posizioni nei nostri confronti. Io vi racconto una battutaccia che faccio sovente, anche tra colleghi magari un pochettino più conservatori di me e così via. Allora, quando ci sono i problemi dello scontro di civiltà, io li interrompo e dico, ma scusa, quando è stata la battaglia di Lepanto? E lì vedi naturalmente di solito il panico, no? Perché capisco che uno non se ne ricordi più, no? Ma la battaglia di Lepanto è uno dei momenti più importanti della storia della modernità, giusto appunto. 7 ottobre 1571 la Lega Santa, guidata da Pio V, dalla Spagna e da Venezia, sconfigge i turchi in una battaglia decisiva per l'inerzia della storia europea, insomma. Da quel momento in poi l'impero turco incomincia, lentamente per allora, ma poi ci vorrà fino alla prima guerra mondiale per concludere questa storia, ma insomma, ebbene, se noi non partiamo di lì non capiremo mai la storia dell'Islam nei suoi rapporti con l'Occidente o con la cristianità in sostanza. Ora, il punto è che sovranità si sposa con identità, e identità a sua volta si sposa con nazione o nazionalità, sono concetti di separatezza, cioè la mia sovranità esiste in quanto è diversa dalla tua, siamo due, cioè siamo N, perché? Perché abbiamo delle identità diverse, e perché abbiamo delle identità diverse? Perché apparteniamo a nazioni diverse. Qui il discorso dovrebbe iniziare, perché questo è un discorso enorme, grossissimo e colossale. Io, se me lo consentite, poi magari ne discutiamo, mi accontenterei di dire a questo punto che io non so cosa voglio, però vi assicuro, lo so benissimo, non so che cosa voglia dire nazione, non so cosa voglia dire identità e non so che cosa voglia dire sovranità. Se volessimo in una parola incominciare a dipanare questo argomento, spiegatemi che cosa vuol dire sovranità per un paese come l'Italia dal 1945 al 1989, per esempio. Non trovereste nessun libro in cui si dice che l'Italia non era un paese sovrano, ma io potrei argomentare con argomenti molto solidi che in realtà non lo era e così via, ma questo è un sassolino che potrebbe diventare una valanga, vi assicuro. Non diciamo poi di identità e di nazione, che sono termini ancora più sulfurei, ancora più nocivi, nuociono gravemente alla salute, ecco, mi accontenterei per ora di dire questo, l'identità nuoce gravemente alla salute. Ecco quindi che dunque, adesso ho veramente finito, nell'accogliere questo invito, perché poi il mio punto era che cosa vorrà dire quello che mi hanno chiesto, nel riflettere su questo invito, ho fatto le riflessioni che vi ho raccontato, e la mia conclusione è la seguente. L'oggi analitico ci dice che siamo, come vi ho accennato prima, di fronte al minimo storico di guerre, ma di fronte al massimo storico di disordine. Cioè, dopo il discorso qui dovrebbe essere a sua volta molto più serio, ma dopo il 2001 in pratica, non in teoria, perché in teoria quello che vi sto dicendo nasce nell'89, ma in pratica noi possiamo dire che a partire dal 2001 inizia a crescere progressivamente, come vogliamo chiamarla, l'entropia del mondo, per metterla in termini raffinati, cioè l'aumento della difficoltà del funzionamento dei nostri meccanismi. Oppure, per dirlo in termini più banali, l'aumento del disordine nel mondo, o, obesianamente, ma ribaltando Hobbes, sta cominciando ad aumentare l'anarchia del mondo. In conclusione, credo di potervi dare una brevissima, significativa, pessima notizia. Tutto ciò dovrebbe portare prossimamente allo scoppio della prossima guerra mondiale. Tra il 2020 e il 2025 moltissimi studiosi, vi assicuro, seri, e partendo da diversi modelli di analisi, convergono nell'immaginare che tra un pugno di anni il mondo non ce la farà più. Anticipando una vostra possibile domanda, dove, perché, io vi rispondo, questo lo aggiungo io, ma sta nelle carte. Se voi appunto di nuovo prendete una carta geografica e la guardate, trovate che c'è un paese, che è il paese più ricco della Terra oggi, che si chiama Kazakistan, che è il più ricco di petrolio, di gas, di materie prime e così via, che, guarda caso, al piano di sopra c'è la Russia, a destra c'è la Cina, sotto c'è Iran, Afghanistan, Pakistan, India, e a sinistra cosa c'è? C'è la lenta, progressiva, avanzata degli Stati Uniti, che essendo entrati nei Balcani nel 1999, nel 2001-2002 sono arrivati in Afghanistan e sono lì. Mi spiace concludere con una cattiva notizia, ma questo io penso sia il grande problema del nostro mondo. Altro che postmoderno, mi viene da dire a questo punto. Beh, io ringrazio Gigi Buonanate perché in realtà ha fatto un discorso estremamente chiaro e mi è sembrato ordinatissimo, e devo dire è stata in larga parte musica per le mie orecchie, anzi una musica dodecafonica sicuramente alla pari delle grandi innovazioni del linguaggio musicale novecentesco, ma mi è piaciuto enormemente. E devo dire, su molte delle cose che lui ha detto sono d'accordo, soprattutto questa equazione che lui ha posto tra sovranità e modernità, no? La modernità è, certamente potremmo vedere la modernità anche come l'ha vista Giovanni Arrighi, come una compresenza di principio di mondialità e principio di territorialità, con tutti i giochi, diciamo, anche diciamo conflittuali e ciclici tra questi due momenti, no? Territorialità e mondialità, però io sono d'accordo con lui che il punto di partenza è proprio sta nell'equazione tra sovranità e modernità. Poi sono d'accordo anche sul modo in cui lui ha delineato i contorni dell'ordine o disordine post-obesiano, che questo è un tema che è molto caro a me, ma è molto caro anche al lavoro che facciamo qui in Fondazione, e naturalmente il modo in cui ha visualizzato il modello obesiano, cioè una pace interna, anzi neutralizzazione del conflitto interno, e anarchia delle relazioni internazionali. Questa doppia faccia, questo doppio versante della statualità moderna ha segnato l'intera vicenda della modernità. E poi anche l'altro punto che mi è sembrato importante è il contrasto che ha stabilito fra questa analisi in qualche modo disincantata dello Stato moderno e invece l'apologetica dei moderni, no? Che hanno inquadrato la vicenda della statualità all'interno di magnifiche sorti progressive. Progresso continuo, non kantiano. Quindi appunto sviluppo glorioso. Anche il modo accorto in cui tu hai introdotto il tema della narrazione, dicendo occorre maggiore narratività nelle nostre ricostruzioni storiche, ma a condizione che non siano estetizzanti, questo mi è sembrato molto importante. Tutta la base del discorso che tu hai fatto, la critica all'occidentocentrismo, all'etnocentrismo occidentale, alla visione per la quale, come noi occidentali amiamo dire appunto, siamo l'unica civiltà che ha codificato e istituzionalizzato l'universale, no? Questa cosa qua. Ed è un tema questo che tu riprendi, sia pure in termini tuoi, da Bobbio, quando Bobbio ha parlato dell'ideologia occidentale, dell'ideologia europea, che parte dalle storie di Erodoto, e poi la critica al realismo, mi è sembrato il modo in cui tu conduci la critica al realismo, facendo vedere da un lato quello che di nuovo è accaduto dopo la soglia del 1989, questa mutazione postmoderna delle relazioni internazionali, che è caratterizzata da un diminuire delle guerre, diciamo delle guerre convenzionali, ma dell'aumento, dell'incremento invece del conflitto, cioè meno guerre, più conflitto, più violenza, meno guerre, più violenza civile, nel duplice versante della violenza politica e della violenza sociale, che può essere anche non immediatamente politica, ma tuttavia espressione di disagio. E naturalmente anche incremento accanto alla violenza di nuove forme di repressione. Questo è dato, le forme di repressione, cioè che sfuggono al monopolio della violenza legittima che era proprio dello Stato, quindi le polizie, appunto le varie polizie private, quindi la privatizzazione della sicurezza. Quindi, ecco, qui si potrebbe aggiungere che tutto questo ha a che fare con una vicenda che tu conosci benissimo, che hai analizzato anche in altre sedi, anche qui in Fondazione, dell'aumentare di forme nella l'ex mercatoria anarchica che noi abbiamo, di forme di criminalità che si muovono lungo la linea d'ombra, per usare un'espressione letteraria famosa, tra legalità e illegalità, e questo a livello globale, cioè uno dei problemi fondamentali proprio dell'ordine e disordine globale è l'incremento del coefficiente di rilevanza della criminalità organizzata, e poi anche molto bello questo, cioè, quindi insomma qui chiudo, questa diciamo guerra dei trent'anni 1914-1945, che viene dopo quella che Polanyi chiamava la pace dei cento anni, che va dal congresso di Vienna fino alla prima guerra mondiale. Quindi abbiamo avuto in Europa una pace dei cento anni, per modo di dire, poi abbiamo avuto il 1848, la guerra franco-prussiana, però abbiamo avuto il colonialismo, una pace tra virgolette, però sicuramente l'Europa, come dire, ha avuto un periodo di crescita dei movimenti sociali, movimenti rivoluzionari, e di, come dire, decremento invece delle guerre fra stati, e poi prima guerra mondiale, scoppio. E qui c'è un'analogia che tu poni, se tanto mi dà tanto, hanno ragione i miei colleghi internazionalisti, che il mondo non può andare avanti in questo modo per tanto tempo con queste tensioni interne, eccetera. E poi l'Unione Europea come la vera novità, una novità che dobbiamo cercare un po' di salvaguardare, perché ho l'impressione che rischiamo grosso, perché rischiamo una destrutturazione dell'Europa che sarebbe un guaio. Mi interessa poi moltissimo quello che tu dici perché ha a che fare anche, si intreccia molto con quello che io sperimento quando vado in giro in filosofia, cioè anche nel mondo anglosassone non chiedono a me italiano di discutere John Rawls, non mi importa nulla, ma mi chiedono di discutere Gramsci, mi chiedono di discutere appunto teorie come quelle di Deleuze, appunto ritengono in qualche modo, quindi io qui appunto noto una strana asincronia del sincronico, cioè mentre la sinistra italiana si aggrappa a Rawls, fuori d'Italia invece Rawls è considerato ormai il passato. Allora, mi è sembrato, ma non è rivolto a Laura, è rivolto anche a Laura, con affetto, ma però, e poi il tema che tu hai toccato, ecco, questo dell'identità. Io che sono assolutamente, penso che la politica seria oggi debba essere una politica proprio netta contro l'identità. Io faccio come Goebbels quando sentiva parlare di, appunto, di cultura. Quando sento il termine identità metto mano alla pistola, no? Perché c'è qualcosa che mi puzza. Allora la cosa, cioè il problema vero è che probabilmente oggi il venir meno degli stati-nazione, cioè il declino degli stati-nazione, determina, almeno questa è la mia tesi che ho sostenuto anche nei miei lavori, è una proliferazione di conflitti identitari, di micronazioni, probabilmente anche i fondamentalismi sono quella roba lì, i subnazionalismi sono quella roba là, i localismi sono quella roba, le etnopolitiche sono quella roba là, sono, come dire, logiche identitarie corazzate, comunità immaginate, sono comunità immaginate con miti dell'origine che proliferano fino alla ridicolaggine del Dio poi in Italia, e insomma tutto questo è lo scenario che tu hai disegnato, che a me è parso, cioè mi conferma che l'asse Roma-Torino, l'asse Fondazione Basso Scuola Bobbiana è un asse, per quanto mi riguarda, molto fecondo. Chi chiede di... Prego, vieni, dai. Registriamo. Mi siedo, sono due domande da fare. No, devo dire, io ho apprezzato, come altre volte, quello che dice Boranate, anche per una certa, come dire, entusiasmo non conformista, insomma, che secondo me è una buona qualità espressiva. Questo è veramente un complimento, non solo di stile. Però che ci salva, che ci divertiamo. Non è un complimento di stile, è un complimento di sostanza. Però ci sono tre o quattro punti su cui appunto ti chiederei, perché tu hai, diciamo, buttato molti temi così in ordine sparso. Quindi qui c'è una prima domanda. Questo discorso che fai sul declino dello Stato, sul merito dell'Europa, sull'89, quanto vedi di elemento di tendenza analitica e quanto di auspicio, di elemento volontaristico, cioè in un certo senso tu metti insieme un po' le due cose. Poi volevo dire, anch'io faccio le domande in ordine sparso, tu non hai mai usato un termine che adesso è molto di moda, forse l'hai fatto una cosa, che è la globalizzazione. La globalizzazione è proprio come elemento che gioca potentemente sul discorso sovranista e via dicendo. Ecco, c'è un'intenzione qui oppure è mancato. Poi ci sono invece tre punti molto specifici, così che... E poi, insomma, qui c'è un discorso che tu hai fatto, le guerre diminuiscono, e poi, in questo io sono abbastanza d'accordo con te, e siccome diminuiscono la violenza si diffonde, poi si arriva alla guerra generale come punto. E hai fatto anche delle analisi storiche. Purtroppo anch'io sono, non so come dire, su questa linea. Le mie domande poi riguardano invece tre punti su cui sono meno d'accordo. Quello dell'89 come grande cesura, come mutazione, tu usi un po' delle iperbole, dici era un fatto impossibile, però poi è successo. E qui secondo me aiuta a capire una guerra vinta anche ma non combattuta, il fatto di questo altro termine di moda che è il soft power, il costruttivismo. Cioè ormai le grandi mutazioni avvengono anche in modi non coercitivi, non nei termini classici, e nel caso dell'Unione Sovietica questo è stato un elemento chiarissimo che ha giocato in modo molto pesante, su cui insomma che è un po' una novità, perché in questo senso è una novità, però dimostra che i mezzi di mutazione del sistema internazionale ormai hanno queste dimensioni, e secondo me, diciamo, teoria critica, il costruttivismo è una scuola molto interessante, il ruolo delle idee, senza fare dell'utopismo, ma insomma qui secondo me è un discorso importante che andrebbe fatto. Quindi c'è questo, quindi l'89 cesura, sì, ma impossibile, ma poi possibile, perché le armi della guerra sono diventate diverse, quindi questo è un fatto nuovo. Fatto nuovo che ancora oggi vale moltissimo, cioè ancora oggi la competizione, senza allargare il discorso, fra capitalismo burocratico e capitalismo democratico, Cina, Russia e gli stati emergenti, si basa un po' anche su quest'idea di una modellistica diversa. L'altro punto è quello dell'unificazione europea. Io sono d'accordo con te, grande esempio, ma grande esempio proprio per l'eccezionalità dell'esempio, per la storia che c'è dietro a tutto questo, che non si ritrova nelle altre esperienze regionalistiche. Adesso c'è un libro di Alessandro Colombo molto bello. L'ho visto solo in vetrina. Ecco, molto bello sulla regionalizzazione. Cioè, sì, è uscito adesso. La disunione del mondo. Sì, sì, che lui è uno studioso molto, molto. Chi l'ha pubblicato? Feltrinelli. E quindi, per dire, lui spiega molto bene, diciamo, diciamo anche proprio il retroterra storico dell'unificazione europea che non c'è in nessun altro caso. E qui voglio dire, la mia ultima considerazione, declino dello Stato. Sì, si parla molto del declino dello Stato, però tu hai citato un esempio, però gli Stati, insomma, questo termine un po' slogan, the West and the Rest, no? And the Rest, che è un termine adesso molto ripreso, e the Rest è sovranista, the Rest è statalista al massimo, gli esempi che io conosco un po', la Cina, la Russia, ma anche tutti questi altri paesi, e mentre qui in Europa, sia pure a fatica, si cedono le quote di sovranità, lì la sovranità è un elemento di estremo rigore anche ideologico. In Russia, in Cina, anche perché poi naturalmente è esaltato da regimi autoritari che naturalmente danno impulso anche a questo. E in questo senso anche, qui veramente finisco, tutti questi esempi che accennavi di tensioni subnazionali, ma queste vogliono fare degli stati, l'Abkhazia vuol fare degli stati, questi esempi che io conosco. E c'è tutto un problema, appunto, che tipo di definizione devi dare a queste entità? Grazie. Osservazione. Vieni Alfonso Gianni, vieni. Sono stato colpito da due cose che ha detto Buonanate. La prima è analoga, cioè la centralità dell'89 che vorrei mettere in discussione. E la seconda riguarda la bomba finale, perché se è vero che nel 2020 c'è la... No, la guerra mondiale, forse non dobbiamo perdere tempo in queste discussioni, ma diciamo proiettarci in una dimensione di azione. Però non sottovaluto il problema, non sottovaluto il problema, no, ma c'è tempo, Laura. Non sottovalutiamo il problema, però ecco, forse va visto in maniera un po' più complessa. Questione dell'89, c'è analogia rispetto a quanto è stato detto prima. Cioè io capisco, comprendo, pur essendo incompetente come noto, che dal punto di vista delle relazioni internazionali, statuali, l'89 è una cesura. Ecco, non mi pare che sia così in un altro campo che diciamo frequento più assiduamente, che quello invece della storia economica del mondo. E questo però lo dico perché non si capirebbe perché c'è la deflagrazione relativamente, sostanzialmente pacifica, dell'impero sovietico, pacifica dell'impero sovietico, se non si considera questa storia economica. Ora, lui prima citava Giovanni Arrighi, storico, diciamo così, italiano di nascita, ma sostanzialmente americano di adozione. Potrei citare Osborne, che ragiona su un periodo temporale più piccolo, ma potrei ricordare, diciamo così, anche il periodare di Angus Madison. Cioè, quello che voglio dire, mi interessava capire dal punto di vista Buonanate, che è più importante dal punto di vista di una cesura nella storia, se la vediamo sotto il profilo economico mondiale, seppure sempre occidentalocentrica, il 15 agosto del 71, che non è il 9 novembre dell'89, cioè la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro in oro che Nixon fa la mattina del 15 agosto, che non la caduta del muro di Berlino. Perché lì c'è il passaggio che gli storici dicono essere durato sostanzialmente la fase prima e centrale degli anni 70 tra i 30 anni gloriosi, quindi la seconda fase della globalizzazione e la terza fase della globalizzazione nel quale noi siamo inseriti. E si capisce perché l'impero sovietico implode, perché era già smangiato dentro, cioè il capitalismo, volere o volare, aveva già vinto indipendentemente dalla sussistenza del muro di Berlino e aveva vinto come sistema economico, come proiezione dei desideri, come immaginario collettivo, dove per desideri non intendo la libertà ma intendo il consumo, o meglio la libertà del consumo, che può sempre una piccola parte della libertà più generale. Noi di sinistra la amiamo meno, ma non possiamo considerare che non ne faccia parte, tanto è vero che quando il consumo manca si lamentano tutti, anche quelli di sinistra. Non ho visto francescani a girarsi molto felici in giro. Ecco, volevo un attimo capire se si può condividere. Naturalmente questa affermazione che io faccio sollecita un'altra riflessione, che, diciamo così, la separazione per competenze della storia è veramente impossibile. Cioè ragionare in termini di relazioni internazionali, avrei detto un tempo, in termini politicisti, seppure, diciamo così, nobilitati dalla dimensione internazionale, e dimenticandosi la dimensione economica o viceversa, conduce sempre a delle conclusioni sbagliate. La seconda questione è questa vicenda della guerra mondiale. Io penso che noi abbiamo, come generazione di sessantenni, mi pare mi posiziono bene, insomma, avendo fatto il compleanno l'altro giorno, questa grande responsabilità, per di più essendo ex sessantottini, questa grande responsabilità rispetto ai miei figli, rispetto alla generazione, consegnargli un mondo possibilmente pacifico. Io non penso che questo mondo possa sostenere una nuova guerra mondiale, cioè mi rifiuto di concepirla come una delle cose possibili e quindi conseguentemente devo fare di tutto per evitarla. Allora qui viene buono l'esempio della Unione Europea, che non è che proprio ha evitato le guerre, più che altro ne ha cambiato il segno, per cui c'era un problema terminologico, insomma, cos'è oggi una guerra, come la si distingue tra una guerra classica da una guerra civile. È complicato, perché anche la guerra classica prevede più morti tra i civili con le nuove, diciamo così, metodologie di guerra che non morte tra i militari, e questa è una sequenza storica che si dimostra dal 1914 in poi. Le percentuali sono totalmente rovesciate. Ormai muore 7-8% di militari e 92% di civili in qualunque conflitto, e quindi non c'è nessuna divisione dal punto di vista antropologico, direi, ma neppure dal punto di vista politico. Però l'Unione Europea, non dobbiamo dimenticarsi che ai suoi margini si è realizzata la guerra balcanica, dove l'Unione Europea ha fatto schifo, visto che è stata la NATO a intervenire, a mio parere sbagliando, ma in ogni caso lì si è rivelato, diciamo così, un punto grave d'impasse. Però tuttavia è vero che, seppure marginalizzata la guerra nel senso del margine geografico, del limes, buttata al di fuori dentro l'Europa, bene, c'è stata pace. Allora la stessa cosa bisogna fare nel mondo. Qui, buonanotte, io non penso, onestamente, essendoci stato quando ero sottosegretario di sviluppo economico, che sia il Kazakistan o il Kazakhstan, come lo vogliamo pronunciare, l'epicentro. L'epicentro si chiama Stati Uniti d'America, Cina, questo è l'epicentro. Cioè è finito il secolo americano, c'è un declino, viva Dio, dell'America, tranne che sotto il profilo militare, ed è questo il problema, ma sotto il profilo finanziario, politico, sociale, economico e culturale, fino anche questo declino è evidentissimo. La cosa più intelligente che quel bravo uomo può fare, mi riferisco a Obama, e accompagnare in modo pacifico questo declino, non opporvisi. E su quello si gioca la eventualità di evitare la guerra mondiale. Per giocarla, secondo me, non ci vuole né il G2 né il G20, ma ci vuole il G192, cioè immaginarsi uno spazio pubblico mondiale, e solo l'ONU lo può essere. a cominciare dalla nuova Bretton Woods che rimette a posto, diciamo così, un po' l'ordine degli scambi monetari e finanziari a livello mondiale, fino a finire a regole, diciamo così, di convivenza civile che vengano fatte proprie dagli stati e vengano anche imposte da un'autorità che non può altro che essere sovranazionale. Insomma, concludendo, visto che tu citavi, mi permetto di dare del tu, l'unità, mentre parlavi mi è venuto in mente, spesso ci penso, a un articolo che padre Ernesto Balducci, io non sono affatto religioso, persona che però ho avuto modo di stimare, scrisse pochi giorni prima del fatale incidente che ci privò della sua intelligenza, la prima pagina sull'unità, che esortiva con queste parole: la dimensione dell'uomo moderno è stretta tra l'alternativa del essere e avere come dimensione il mondo intero e il ritorno al villaggio d'origine. Credo che la sinistra, san frase, senza aggettivi, si collochi in una dimensione sovranazionale, multiculturale e dunque in una dimensione di diciamo globalizzazione depurata dalla violenza capitalistica, e la destra, a cominciare dalla Lega Nord, si posiziona sul ritorno al villaggio d'origine. Ma se così è, ci dobbiamo ragionare attorno a questo problema: riforma dell'ONU, riforma dei mercati internazionali, funzionamento, insomma, bisogna che nasca qualche intelligenza un po' meno, diciamo così, nazionalcentrica o addirittura regionocentrica, come spesso accade, altrimenti andiamo dritti filati, non per via del Kazakistan, ma per via della Via della Seta, in un nuovo scontro bellico che distrugge il mondo. Dopodiché tutti i libri che abbiamo scritto non servono davvero a nulla, anche se li abbiamo conservati, diciamo così, in cipi informatici. Grazie. Laura Pennacchi. Ma io ho dei dubbi che formulo a voce alta, che sono dubbi che mi accompagnano di questi tempi, quando ragiono su queste cose, come ho fatto anche oggi nel seguire l'introduzione di Bonanatti. E quindi non sono rilievi miei e tantomeno osservazioni, sono proprio un tentativo di sommare alle sollecitazioni che vengono da questa introduzione un ragionamento che si sta svolgendo, come anche il dibattito di questa sera dimostra, su tanti fronti e da tempo. I punti sono due. Uno, non essendo io una sovranista e non avendo nessuna simpatia per il sovranismo, tuttavia queste analisi che vengono fatte sulla fine della sovranità, la sovranità identificata con la modernità e quindi la fase in cui la sovranità non c'è più, fase di superamento della modernità, postmodernità o come la si vuole definire, trovo che ci sono molte cose stridenti con questa facilità, diciamo così, dell'analisi su questo punto. E queste cose stridenti emergono di più se l'analisi anche delle relazioni internazionali la facciamo, come diceva, come sottolineava adesso Alfonso Gianni, molto nei termini appunto di più discipline che si incrociano, perché una delle cose che più ha segnato il dibattito sulla modernità è stato anche il fatto che ci fosse stata una fine della politica, ci fosse una fine della politica determinata dall'autonomizzazione fortissima dell'economia che comanda la politica, che esprime un comando sulla politica, e questo sarebbe molto accentuato dalla globalizzazione capitalistica neoliberistica degli ultimi 20 anni. Allora qui c'è le variabili economiche sono importantissime. Se addirittura si dà una lettura generale della modernità, del tipo di quella che ho sommariamente ricordato. E in questo ambito però ci ritorna un problema di sovranità. Per esempio, con la crisi economica in corso, che io penso che sia tutto tranne che un incidente, e penso che sia di una profondità quantitativa e qualitativa enorme, ma anche proprio segna una svolta, a proposito di Polanyi, una svolta veramente drastica, di una radicalità che è impensabile. E a proposito di Polanyi, credo che veramente soltanto una esemplificazione da Great Transformation, che si riproduce, sarebbe la terza a questo punto, ci consente di analizzare. E detto tra parentesi, se la portata delle cose in corso è questa, è tanto più grave il silenzio delle forze di sinistra e delle forze di centrosinistra che balbettano cose stentate, ecco, sulla crisi. E la crisi però ci dimostra, ormai c'è qualcuno che fa risalire la crisi, sostiene che in fondo siamo stati in una situazione di crisi ininterrotta già dal 2001 con l'esplosione della bolla .com, ma comunque abbiamo avuto segnali rilevantissimi nel 2007, c'è stata l'esplosione acclarata nel 2008, ora, poi c'è stato il 2009, la recessione del 2009, ora siamo nel 2010, sono gli stati nazionali sovrani che hanno salvato il mondo. E quindi siamo in una situazione di questo genere. E l'hanno salvato in forme assolutamente discutibili, peraltro, che a me non è che mi piacciono. I conti che sono stati fatti sulla mole di risorse impegnate per salvare il sistema finanziario mondiale, perché salvare il mondo ha equivalto a salvare innanzitutto il sistema finanziario mondiale, e adesso arriva la budget hysteria di cui parla Krugman, per cui niente più si può fare e su niente più si può ragionare, e c'è la crisi della Grecia che pone in discussione addirittura l'euro a proposito di unificazione europea. L'unica risposta che si sa dare è quella di che dà la Germania, che è di premunirsi nel senso di espellere poi la Grecia dall'euro, senza che questo automaticamente significhi, come è nelle condizioni date, anche un'uscita dall'Unione Europea. Quindi c'è un problema enorme su questa terminologia, su quello che ci sta dietro, e io non sono molto insoddisfatta dal continuare a usare le categorie dello Stato-Nazione, ma sono altrettanto insoddisfatta da questa facilità con cui si decreta la fine del paradigma della sovranità e dello Stato-Nazione, così come anche le segnalazioni che faceva il signore che è intervenuto prima. Il secondo punto è collegato a questo, perché è un secondo punto, diciamo, che in cui mi riconosco molto nelle cose che diceva prima Alfonso Gianni. È un po' di tempo che sono molto d'accordo con lui, questo è un po' strano. No, preoccupante no. Beh, però si potrebbe pensare che sei tu d'accordo con me. E allora questo non sarebbe fuori tempo massimo, questa direzione non sarebbe fuori tempo massimo. Comunque, collegata a questo, c'è una riflessione su come facciamo a fronteggiare tutta questa situazione, normativamente, quale atteggiamento assumiamo. E io sono d'accordissimo, mentre non credo che la dichiarazione di inconvertibilità del 1971 sia addirittura più importante è stata un'enfasi retorica, però certamente è stata importantissima. Io credo che però che l'89 ci pone dei problemi che vanno al di là del fatto che l'Unione Sovietica non fosse stata in grado di attivare l'economia nelle forme dinamiche incalzanti dell'economia capitalistica. Penso che sia più complicata la faccenda, anche in termini di sovranità. Tuttavia, quello che, insomma, la situazione mi consegna mi riporta alla questione di prima in termini non più di Stato ma di statualità, di esercizio delle di forme regolative in senso molto profondo, molto ampio, no? Non della regolazione come adesso si discute della regolazione finanziaria, della costruzione e delle istituzioni in grado di fare tutto questo, e della stateness, come dicono gli inglesi, che appunto produce su scale ingigantite, che per noi non possono che essere la scala europea e per il mondo sono la scala mondiale. E da questo punto di vista voglio qui spiegare che è questa la ragione per cui io mi sono molto appassionata a Rawls, perché non tanto per le soluzioni specifiche che Rawls ha dato, soprattutto a livello di ordine internazionale, il diritto dei popoli è una delle cose più fragili e anche caduca, insomma, che Rawls ha prodotto, ma l'idea che Rawls ha imposto a tutto il pensiero filosofico, politico-filosofico mondiale, che dovesse essere posto dopo secoli di positivismo, di spirito hobbesiano per l'appunto, di antropologia negativa hobbesiana, dovesse essere posta una problematica delle istituzioni giuste. Rawls è grande perché pone il tema della giustizia in relazione alle istituzioni, non solo. Sì, vabbè, però era passato un sacco di, con la modernità era passato un sacco di tempo poi, però perché tutto questo non era stato riproposto, e quello che è successo dalla fine del Settecento in poi non ha ripreso Platone, non mi pare proprio che abbia ripreso Platone. E senza riprendere anche gli aspetti che una parte del liberalismo ha considerato totalitari del pensiero di Platone, e magari prendendo più aspetti del pensiero di Aristotele, che viceversa in Russia non sono presenti, ma sono presenti nella riflessione di tante donne. Di Rawls, che è anche aristotelico feroce. L'ho detto un attimo fa. Ho detto questo per dire proprio anche della ibridazione che a me sembrerebbe necessaria, delle forme proprio di intersezione, di ibridazione positiva che sembrerebbe necessaria per affrontare tutte queste problematiche. Allora, chi chiede di intervenire? No, venga signora. Ma noi registriamo, signora, i seminari li registriamo. L'ha detto già prima. Non li riprendiamo per video, ma però insomma li registriamo. Si chiamano intercettazioni. Dunque, io volevo dire che sento sicuramente l'esigenza di riflettere su tutti questi grandi e gravi problemi che sono stati posti. Comunque, la prima cosa che mi viene in mente è di trovare una bussola rispetto a tutto questo, a tutte queste grandi problematiche. Credo che la bussola sia il progetto, cioè la cosa di cui bisognerebbe discutere, da cui bisognerebbe partire. E che cosa vogliamo, qual è il programma, qual è il progetto. Io credo che a questo punto il programma è quello dell'affermazione e della promozione politica di democrazia. I grandi concetti, i grandi principi della democrazia, in questo modo si supera la barriera nazionale, quindi si parla ormai già di una situazione di globalizzazione, di livelli internazionali. E quindi ecco, credo che in questo senso ci debba essere una svolta rispetto al mondo hobbesiano che ha caratterizzato la storia di questi secoli dell'Occidente. E poi penso che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo possa essere una buona base di identità. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, allora Gigi puoi rispondere. Troppa grazia a Sant'Antonio, troppi problemi, troppe cose. No, vi ringrazio delle osservazioni, i temi che avete messo sul tavolo, le domande, i dubbi e così via sono molto grossi, molto complessi e non penso di essere in grado di rispondere a tutto. Io ho cercato di prendere degli appunti, ma insomma. Dunque, incominciamo dall'89, che comunque è comparso in diverse delle vostre osservazioni. Mi perdonerete se non tocco i punti di tutti, ma cercherò di riassumerli tutti sotto una considerazione che io in effetti non ho fatto prima nella mia presentazione, che sarebbe stata più opportuna. La vera importanza dell'89, come dire, l'importanza segreta, ma quella decisiva, diciamola così, nessuno di voi mi ha chiesto come mai la conflittualità sia diminuita con l'89. Cioè, il vero punto è questo. La cosa impossibile che è successa è stata la rottura del nesso Stato-guerra. Ricordate che io sono partito da Tilli e dalla inscindibilità del nesso Stato-guerra. Aggiungo qui tra parentesi, è chiaro che su tante forme della sovranità attuale sono del tutto d'accordo, conserviamocela, ma per ragioni puramente tattiche direi. La sovranità, come dire, è una brutta cosa. Ma oggi è come le automobili inquinano, sarebbe meglio non averle, ma per adesso, non avendo ancora trovato soluzioni migliori, se rinunciassimo anche alle automobili forse saremmo più in difficoltà. Però sono sostanzialmente d'accordo con il fatto che oggi la sovranità come artificio tecnico vada perseguita. Ma tornando all'argomento principale, la rottura del nesso Stato-guerra discende dal fatto che dal 1945 al 1989 si è consumato un cammino che, utilizzando questa volta una metafora, se volete, un pochettino più sgradevole, un cammino che è consistito nella degenerazione di alcune cellule. Quando io dico mutazione postmoderna, intendo, accento la parola mutazione, che cos'è? Per quali casi si usa la parola mutazione? La parola mutazione si usa per i casi in cui una trasformazione è fuori dalla natura, se non addirittura contro natura. Ora, quando io dico Stato, la tradizione dice lo Stato è la guerra, e io scopro che lo Stato non è più la guerra, vuol dire che lì in mezzo, e lì in mezzo è tra il 45 e l'89, non dopo l'89, è l'89 che va spiegato, non è che l'89 spiega quello che succede. Quello che succede tra il 45 e l'89 è questa mutazione genetica, sono delle cellule che mutano. Ora, io lo dico in questi termini un po' sgradevoli, un po' drammatizzanti, ma quello che succede è il cammino di progressiva incapacitazione degli stati di ricorrere alla guerra nel senso storico-tradizionale del termine, la guerra come soluzione delle controversie. La bomba atomica, diciamo, io scusate, vado un po' con l'accetta sempre in questi discorsi, ma se no a mezzanotte siamo ancora qui, o mezzanotte di domani intendo. La bomba atomica ha progressivamente lobotomizzato gli stati, insomma. Continuo a usare queste metafore cliniche, ma perché è una cosa stupefacente, secondo me. Dopo 5 secoli in cui la guerra aveva sempre condotto la musica della vita internazionale, la guerra produce dei risultati che però sono stati prodotti della rinuncia alle guerre. Allora, quello che succede di importante è questo fatto qui. Gli stati progressivamente, di fronte alla situazione nucleare, di fronte al pericolo nucleare, hanno perso la capacità di fare la guerra. Questa conclusione possiede un aspetto di straordinaria bellezza. Gli stati sono meno capaci di una volta di fare la guerra, questo è il lato buono della il lato bello della favola. Ma l'altro lato è dovuto al fatto che questo non è stato il prodotto, qualcuno di voi, forse il traduttore all'inizio, mi ha chiesto qual è il rapporto tra soggettività e oggettività di tutto ciò. Ecco, secondo me è brutto dirlo, una specie di malattia della modernità, ecco, mettiamola così. La modernità si è ammalata e ha prodotto questo risultato straordinario. È vero che l'Unione Sovietica era in crisi da tanti anni, è vero che tutti avevano scritto prima o poi il gigante coi piedi d'argilla crollerà, ma come era durato 70 anni poteva durare ancora 30, 25, 50, difficile dirsi. 71, non 71, certo, le dinamiche, l'Unione Sovietica aveva perso la guerra, non ce ne so, la guerra a questo altro di che in senso metaforico parlare. È chiaro che non c'era partita, il declino era continuo, progressivo, ma questo cammino avrebbe potuto durare ancora abbastanza a lungo. Quello che è cambiato è stata la percezione, tra l'altro spinta in modo straordinariamente lucido dai governi Reagan, di continuare a punzecchiare questo gigante che barcollava ma poteva restare in piedi, e l'opzione zero, le guerre stellari, queste cose sono state uno shock dietro l'altro che hanno favorito questa fine. Quindi il punto chiave di questa parte del mio discorso, ecco qui eri tu, cosa c'è di volontario e cosa di spontaneo. Tu dicevi non è l'89 la cesura forse, io invece scusami ma insisto, secondo me l'89 è veramente una data, di quelle date che sui libri di storia tra un paio di secoli ci saranno come quella della rivoluzione francese. E non credo neanche che i grandi mutamenti possano giungere col soft power. Il soft power serve per gestire l'ordinario, serve, e tra l'altro dove sia il soft power americano, se mi sembra un'altra derivazione paretiana anche questa, cioè questi signori così un pochettino simpatici ma ingenui alla Nye, ai Kenberry, questi signori qui, veramente mi fanno un po' tenerezza, ti devo dire. Perché parlare degli Stati Uniti e del soft power oggi, ma se c'è, sì, ma sai, è da dieci anni che dura la fine di questo soft power, o per meglio dire è dal Kosovo, quindi da prima del Kosovo, dall'aver lasciato condurre la vicenda della Jugoslavia, della guerra in Bosnia come l'ha lasciata condurre. Se questo è soft power, è potere cinico questo, non leggero, ma questo è quasi scherzoso. L'Unione Europea, lasciamola un attimo da parte, che è un bel discorso. Il no alla centralità dell'89 che tu ricordavi, credo di averlo difeso un pochettino adesso, e ribadisco, il capitalismo l'aveva già vinta, stravinta. Non lo dico in senso positivo, era già andata così quella storia lì. Quindi l'89 spazza via la sconfitta, ahimè, tra l'altro l'89 è anche la sconfitta che non dobbiamo dimenticare, perché è una pagina di storia quasi altrettanto importante che Piazza Tiananmen, simbolicamente parlando, non come evento perché non c'è confronto con l'89. Però se voi ricordate con quale volgarità il mondo occidentale accolse Tiananmen dicendo che bello il socialismo è morto, rendendosi conto che una cosa è il socialismo reale, cioè, ma un'altra cosa sono i principi. Nell'89 si festeggiò il fatto che i principi del socialismo erano morti, una cosa di una volgarità. Io capisco che ci siano dei non socialisti, ma con un po' di rispetto, ragazzi, noi non abbiamo mai detto che è bello quando il liberalismo muore, ma per bacco. Un po' di decoro. Ora, il problema della prossima guerra mondiale, sono in sostanza d'accordo, io ho detto Kazakistan, così come si diceva durante il bipolarismo che la guerra mondiale sarebbe scoppiata in Germania, perché era il caso tedesco, quello delle due Germanie. Però è chiaro che il problema è Stati Uniti declinanti e Cina, e che si incontreranno lì, questa era solo la mia, era un po' più romanzesca come risposta, ma non mi sembra che fossimo così in contrasto su questo punto. Una cosa su cui invece permettetemi di dirmi, che l'ha detto anche Giacomo, mi spiace contraddirlo, ma insomma siamo amici lo stesso, è questa storia del rapporto tra la mortalità civile e la mortalità militare. Guardate, questa è una bufala pazzesca che moltissimi studiosi, colleghi affermatissimi, Mary Caldo insomma è una studiosa di grande valore, continuano ad accreditare, ma che non corrisponde assolutamente alla storia della mortalità civile e militare. Nella seconda guerra mondiale, dunque il discorso è non tanto come l'ha detto lui, ma come lo dice Mericaldo, una volta morivano 9 militari per un civile, adesso muoiono 9 civili per un militare. Bene, ditemi, applicate questo teorema alla seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale sono morti 50 milioni di persone, di queste non più di 3 milioni erano militari. Quindi, adesso io non so bene, non mi intendo bene d'aritmetica, ma vogliamo dire che il 90% dei morti furono civili e non militari? È sempre stato così. Nella guerra dei 30 anni sono morti infinitamente più civili che militari. È sempre stato così, capisci? È solo nelle guerre romane che il rapporto nelle guerre dell'antichità, poi questa cosa qui che ci è stata venduta e che adesso io a voi non l'ho detto della prima guerra mondiale, amici miei, ancora di più, 8 milioni di morti nella prima guerra mondiale, abbiamo 8 milioni di morti, ma sono morti nelle trincee, non sono morti nei bombardamenti, quindi erano soldati, quindi non sono i civili che muoiono adesso, che muoiono durante le guerre, è sempre stato così, muoiono molti più civili che non... Oltretutto c'è anche una ragione tecnica molto banale che è rappresentata dall'invenzione dei bombardamenti strategici, non è chiaro che... E nelle guerre ipotetiche del futuro... La questione del raffinamento delle tecniche militari, delle strumentazioni, dei droni, di tutte queste cose, è vero, ma questo è gran parte un giocattolo del sistema militare industriale, perché sono grandi affari, sono grandi trucchi, ma non hanno nessuna, non dico per fortuna, perché se fossero capaci di far fare la guerra soltanto dalle macchine sarebbe una meraviglia, non so se sapete che... se fosse possibile, ai droni gli hanno messo, che hanno un cervello elettronico dentro, gli hanno messo anche il testo delle 4 convenzioni sul diritto di guerra di Ginevra, le 4 convenzioni. Sì, per cui quando tu critichi queste cose, la risposta dei sostenitori di questa cosa, la risposta è: ma loro si comportano secondo i criteri del diritto di guerra, capisci? È spaventoso. Comunque Torniamo un pochettino di più. Dunque, Pennacchi, le variabili economiche e così via, certo, tutte queste sono altre, e la globalizzazione. Io non ho quasi volutamente toccato questa dimensione. Primo, comunque, la globalizzazione per me è una brutta parola. Cioè, è il vettore di tutta una serie di cose da discutere, da criticare e così via. Quella contemporanea poi, che è quella del clintonismo, del decennio di Clinton, che è stato, forse per nostra ingenuità, ma una bufala pazzesca. Il decennio di Clinton, della new economy, tutti avevano nelle mani la possibilità di raggiungere il successo, di fare grandi affari, è stato un bruttissimo, è stato un momento di ingenuità o di ottusità collettiva pazzesco, perché è il decennio nel quale nelle università americane si studiavano le tecniche per l'esportazione violenta della democrazia. È pieno, gli anni 90, 95, 96, sono pieni di quei libri che poi, non che li abbia letti Bush perché non sapeva leggere, ma che i suoi consiglieri, invece che sapevano leggere, gli hanno poi proposto come soluzioni politiche dopo. Quindi la globalizzazione è una cosa, secondo me, da discutere, da combattere, da contrastare, da chiarire, perché lì c'è stato molto di brutto proprio da questo punto di vista. Già dicevo prima, per quanto riguarda la capacità attuale delle istituzioni, anche sovranistiche, per ora, di salvaguardare la tenuta del sistema, credo di poter accettare senz'altro questo tipo di specificazione o di correzione. È vero che sono gli stati sovrani che hanno salvato il mondo, per adesso, ma il mio timore, la mia preoccupazione è che la crisi economica attuale, a cui lo Stato vecchio, no, chiamiamolo così, lo Stato della sovranità, ha potuto contrapporre una difesa, sia però l'inizio di quella grande crisi di cui dicevo. Kondratiev e i suoi seguaci, i teorici del ciclo economico, vedono proprio in questo tipo di fenomeni i primi sintomi della crisi finale. È vero che le istituzioni che ci sono stanno difendendo l'esistente, però il fatto che siano da difendere è proprio il primo segno di questo nuovo scricchiolio, secondo questa impostazione. Io non sono un profeta, non so se sarà poi proprio così, però le teorie cicliche che arrivano poi fino a Toynbee, il quale diceva che ogni 100 anni c'era una guerra mondiale, e amici miei, 1521, guerra tra Carlo V e Francesco I, 1618, guerra dei trent'anni, 1701, guerra di successione spagnola, 1815, guerra napoleonica, 1914, prima guerra mondiale, c'è di che fare scongiuri, ragazzi, perché è spaventoso. Io immagino che un antropologo fisico, un demografo, potrebbe benissimo argomentare che ogni tanto il mondo abbia, non dico bisogno perché è una brutta parola, ma debba consumare certi suoi eccessi. In fondo, quando Hegel dice che i giovani devono essere ogni tanto sottoposti a una guerra perché come le acque di uno stagno altrimenti imputridiscono, non è il nostro tema, ma sta in quella stessa logica, come se l'umanità, ahimè, avesse ogni tanto avuto o avrà ancora forse bisogno, no allo Stato nazionale, io ho detto certamente, ma noi siamo oggi, in questa mia interpretazione, in mezzo a questi nuovi problemi. Qualcuno di voi ha detto, forse eri ancora tu, lo statalismo in fondo resiste, e cosa facciamo? Io vi ricordo che ci sono, pare, all'incirca 10.000 nazioni nel mondo. Allora io sarei del tutto d'accordo sul salvataggio della nazione se noi dicessimo che diamo vita a 10.000 stati. Siccome il mito occidentale è stato quello dello Stato-nazione, dello Stato-nazione, no? Del nation state, allora se voi mi dite lo Stato-nazione è talmente importante che diamo uno Stato a ogni nazione e fa 10.000, e voi capite che 10.000 nazioni vuol dire aver ucciso l'idea sia di Stato sia di nazione, è come il cosmopolitismo, e sarebbe un sogno, e invece le cose non sono così, allora io dico o lo Stato o la nazione, perché dove Stato e nazione si sono unite hanno prodotto quella cosa che oggi chiamerei un vuoto a perdere, cioè l'idea di nazione serve per costruire lo Stato, serve come forma di emancipazione, serve come forma di indipendenza, ma se voi dopo che vi siete liberati, emancipati così e continuate a credere nell'idea di nazione, diventate nazionalisti, il nazionalismo è foriero di violenza e di guerra, quindi non credo che stare attaccati alla nazione nel modo in cui facciamo noi possa essere, se non provvisoriamente, un'impalcatura. È un'impalcatura, insomma, stiamo costruendo un nuovo edificio che può essere forse un edificio buono o magari invece quello che poi crolla. Ma quando si costruisce si mettono l'impalcatura. L'impalcatura un po' dovrebbero servire, però non sono il fine della costruzione. Allora, noi abbiamo delle vecchie impalcature che, a mio modo di vedere, ormai scricchiolano fortemente. Questo scricchiolio è iniziato, secondo me, nell'89. Il 2001 non è una svolta storica, è un episodio importantissimo, ma non è di lì che l'inerzia della partita è cambiata. Dall'89 in poi il mondo è cominciato a incriccarsi, ad avere delle cose che non funzionano più come prima. Con un enorme dubbio, prima il sistema internazionale era solido, ma ingiusto, dispotico, illiberale, tutto quello che ci possiamo mettere dentro. In fondo Stati Uniti e Unione Sovietica se la passavano benissimo insieme e per tanti anni hanno condiviso serenamente le decisioni importanti della storia del mondo. Gli Stati Uniti non ci hanno guadagnato tantissimo dal crollo dell'Unione Sovietica perché hanno perso anche loro le loro certezze. Da quel momento in poi noi abbiamo avuto la nostra libertà in mano. Ecco, potremmo farne delle cose bellissime, mi sembra che da allora in poi però non abbiamo incominciato a fare alcunché di buono. Salvo, ma concordo con alcune osservazioni che anche voi avete fatto, io sono stato un po' schematico, salvo il modello dell'Unione Europea, che in sé potrebbe essere una bellissima cosa. A tutt'oggi certamente non lo è, basta guardare la questione della Grecia, appunto, come lei diceva, ti metti le mani nei capelli, se questo è lo spirito unionistico, è il mondo nuovo e così. Sono tutte vere queste osservazioni, sono tutte corrette. Io sono sempre stato un fortissimo e fondamentale ottimista. Ho smesso di esserlo negli ultimi tempi, ahimè. Mi spiace anche detto soggettivamente, no? Perché stavo meglio da ottimista che da pessimista. Però non mi piace quello che sta succedendo nella vita internazionale oggi.